Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ascolteremo e commenteremo le parole di Mario Draghi, che è tornato non solo ad mettere in guardia dicendo attenzione, la ripresa è moderata, vi sono chiari rischi di un ribasso, ma la cosa più importante, e poi ha criticato anche le banche, ha detto se le banche non funzionano abbassare i tassi non serve. Ci sono severi danni all'economia reale dalla situazione bancaria che si è generata nel 2012-2013 e poi per quello che riguarda invece l'intervento, diciamo, la parte più importante, ha detto attenzione, se i rischi al ribasso verranno confermati e saranno più seri del previsto, va rivisto anche il quantitative easing, quindi l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e dalle banche, dalle singole banche centrali, quello che è iniziato, ma Draghi ha fatto capire che se la situazione non dovesse migliorare, soprattutto sull'obiettivo di una stabilità dei prezzi, quindi di un'inflazione che non può restare così debole e quindi segnalare un'economia che non sta ripartendo in maniera virtuosa, a quel punto dovrà aumentare, da quello che abbiamo capito, l'ammontare, l'incisività del quantitative easing. Questo per quello che riguarda Mario Draghi. Parleremo però anche di altre notizie che riguardano per esempio tutto il tema discusso a Malta sull'accordo per il cosiddetto Trust Fund, quindi i soldi che l'Europa mette a disposizione della cooperazione dei progetti con l'Africa, oltre che per la lotta ai trafficanti, 1,8 miliardi di euro, e a questi fondi europei si aggiungeranno quelli versati dai singoli stati, che al momento toccano circa 100 milioni di euro, ma per Juncker non sono abbastanza. Il moltiplicarsi delle barriere, dei controlli alle frontiere non permette di parlare di un fine del sistema di Schengen, ha detto anche Juncker. E poi la Mogherini ha ammonito, non servono muri ma un'azione comune. Vabbè, detto così vuol dire tutto e vuol dire niente, però poi arriveremo a commentare anche queste decisioni per quello che riguarda chiaramente l'aspetto di carattere economico. E poi cercheremo di capire, più volte ce lo sollecitate, attraverso le categorie produttive, come si chiamano in gergo, in questo caso il mondo molto complesso e articolato dell'autotrasporto, se una ripresa economica si veda anche in chi trasporta le merci. Sappiamo che esistono degli indicatori, li abbiamo raccontati negli anni scorsi, indicatori empirici che vanno dal Baltic Dry Index, che poi racconteremo, e quindi il costo per noleggiare un cargo, fatta la media delle rotte principali, ti dice quanto è forte una ripresa economica. Più aumenta il costo di nolo, più vuol dire che l'attività commerciale si sta intensificando, e viceversa era crollato dopo il 2008. Anche l'andamento delle merci trasportate ti dà un segnale empirico, per quanto parziale, se siamo di fronte o meno a una ripresa economica chiara e, diciamo, e che si va a irrobustire. Allora, dite che l'economia è ripartita. Allora, no, no, noi stiamo dicendo semplicemente che Mario Draghi, quindi vedo già i primi commenti al 349-238-6666, che è il numero sia per gli sms, come spieghiamo da ieri, che per WhatsApp. Dicevo 349-238-6666. Ma avete detto che la ripresa c'è. Allora, il governo dice che la ripresa è in atto, che abbiamo svoltato e che abbiamo voltato pagina e stiamo risalendo la china. I numeri vanno in questa direzione. Mario Draghi, quando parla, non parla solo dell'Italia, parla del contesto europeo e anche internazionale. Abbiamo però detto che c'è un rallentamento in corso nelle economie prima giudicate trainanti, e quindi Brasile, Russia e Cina, e che in questo momento tutte le speranze perché la ripresa non si affloschi sono concentrate sulla variabile atlantica, quindi Stati Uniti e Canada soprattutto, Stati Uniti e Canada come area geografica. Quindi questo non è in contrasto con quanto dice Mario Draghi oggi, che vede, nonostante il quantitative easing, un'inflazione ancora troppo bassa, e individua, poi abbiate un po' di pazienza, ne parleremo, individua anche nel sistema bancario, nelle sue condizioni, con una marea di sofferenze in pancia, le difficoltà a far sì che questa operazione della Banca Centrale Europea si traghetti, si trasmetta all'economia reale. Oltre al numero per gli sms, c'è sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve, partendo dalla borsa che oggi a Milano soprattutto conosce una giornata un po' difficile. Allora, giornata difficile perché? Beh, per alcuni titoli, non sono pochi, e mi riferisco in primo luogo a Exor. Ha collocato circa il 5% del capitale, il mercato si è allineato al prezzo, ha venduto sul mercato circa il 4,8%, attende un incasso di 500 milioni di euro la controllante del gruppo Fiat, meno 6,40%. È il modo in cui il mercato si è allineato al prezzo. Poi c'è Unicredit che, dopo i conti di lacrime e sangue, più che altro, più che i conti, il piano di lacrime e sangue annunciato ieri, oggi il titolo perde il 5,50%. Ricordo che ieri Ghizzoni ha annunciato 18.200 tagli a livello mondiale, di cui 6.900 in Italia. Molti sono prepensionamenti, ma i sindacati lamentano che e vi siano anche qualche centinaio di licenziamenti veri e propri, 1 miliardo e 600 milioni di risparmi, e poi tutta la vicenda dell'Ucraina e della Croazia. Ne parleremo anche di questo, alcuni mi fanno notare, ma insomma è colpa di Ghizzoni o della vecchia gestione? Adesso ne parleremo quando avremo Ghizzoni ospite. Certo è che il disegno che a suo tempo mise in atto Alessandro Profumo quando guidava Unicredit, cioè la banca universale, la banca che doveva essere presente nell'est Europa, la banca, beh, è un disegno che sta rivelando un insieme di debolezze enormi, non solo nell'organizzazione interna, nel senso che la banca universale faceva sì che poi venissero smistate le varie competenze anche in aree distanti dall'erogazione del credito, penso insomma era divisa, se non ricordo male, Torino, Bologna, ma dovevano occuparsi tutta l'Italia, ma questo era un aspetto. E poi questa espansione verso l'est ha creato non pochi problemi, pensiamo alla Polonia, ma pensiamo anche appunto a quello che è successo in Ucraina e in Croazia, da dove arrivano 400 milioni di euro di svalutazione sulla controllata in Ucraina, e poi c'è anche la conversione in euro dei mutui in franchi svizzi sulla Croazia. Questo c'entra meno obiettivamente col disegno di Alessandro Profumo, ma il punto è sempre quello, nel senso che poi, perché vedo che alcuni mi hanno scritto anche dei bonus che a suo tempo prese Profumo della mega liquidazione quando fu mandato via dall'Unicredit. Sì, il ragionamento è sempre il solito, cioè i bonus andrebbero, anche le stock option, agganciate ai risultati, e quindi quando un manager se ne va gli devi dare, come avviene adesso, devo dire in maniera più stringente rispetto a prima, daglieli almeno vincolati, no? Fra 5 anni potrà riscattare le azioni, in modo che vediamo cosa succede all'azienda quando se ne va il top manager. Comunque, al di là di Exor e Unicredit, Saipem anche va male, perde il 4,40%, Unipol il 4,12%, CNH il 3,70%, Ferragamo meno 3,70%. Ci sono molte trimestrali anche di imprese europee che non sono piaciute alla borsa oggi. Parigi perde l'1,60%, Francoforte meno, perde lo 0,80%, Londra meno 1,50%. Faccio notare che Rolls Royce è arrivata a perdere il 20% in borsa, con il peggior calo in 15 anni, dopo aver annunciato un possibile taglio del dividendo, quindi degli utili che vengono distribuiti agli azionisti, e rivisto appunto in peggio comunque le prospettive sugli utili. Rolls Royce costruisce i motori per Boeing e Airbus, quindi questo poi permette anche dei ragionamenti più ampi. Per quello che riguarda altri titoli, anche Yux Net-a-Porter ha comunicato i dati, ma l'andamento è opposto, nel senso che è il miglior titolo, più 2,90%. I ricavi salgono 1,2 miliardi post fusione tra Yux e Net-a-Porter, un unico gruppo adesso. Bene Tod's dopo le trimestrali, più 2,15%, i ricavi nei primi 9 mesi più 6,2%, confermati gli obiettivi per Tod's nel 2015, i ricavi vanno a 787 milioni. La popolare Emilia Romagna anch'essa conti buoni, l'utile nei primi 9 mesi è salito a 82,5 milioni di euro e il titolo guadagna lo 0,50%. Sul petrolio oggi c'è notizia, nel senso che l'operazione dell'OPEC per ora il braccio di ferro, l'abbiamo raccontato molte volte, l'OPEC non vuole ridurre la produzione perché in questo modo continuerà o si è già abbassato il prezzo del petrolio e spera di cacciare fuori mercato, di rendere non più convenienti alcune produzioni di petrolio americane, il cosiddetto shale oil, che secondo molti esperti sarebbero convenienti solo, e sarebbero giustificate da un punto di vista economico solo con un petrolio intorno ai $70 al barile. Il dato di fatto però è che nel frattempo il petrolio continua a calare, oggi è arrivato di nuovo a $42.3 al barile, 42.5, e questo tra l'altro dopo che l'OPEC stessa ha detto che la forte produzione ha portato le scorte di greggio ai massimi da almeno 10 anni. Sono 210 milioni di barili sopra la media costante degli ultimi 5 anni. Ci spostiamo all'Egitto, dove le perdite economiche previste dall'Egitto nel turismo, dopo lo stop dei voli da parte di alcuni paesi, dopo la tragedia dell'attentato terroristico all'aereo russo in Sinai, dicevo, la stima fatta oggi dal ministro del turismo egiziano è di una perdita di circa $800 milioni se la decisione si prolungasse per 3 mesi. Nel frattempo dall'America continuano ad arrivare nuove conferme che la Fed inizierà a alzare i tassi già quest'anno. Oggi il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Ballard, ha detto la Fed dovrebbe aumentare il costo del denaro perché le politiche di emergenza non sono più necessarie. Sia il lavoro, quindi l'occupazione, che l'inflazione sono vicine agli obiettivi della Banca Centrale Europea, della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve. E la Yellen ha detto: attenzione, insomma, la crisi finanziaria ha avuto un effetto profondo sull'economia americana, ha cambiato la percezione della politica americana, ma insomma tutti si attendono, visto anche il dato di oggi sui sussidi alla disoccupazione, che a dicembre arrivi un aumento dei tassi di interesse. Vedo molti messaggi su Draghi, ripeto, ne parleremo dopo, ma su Draghi, sulle parole di Draghi, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Ogni giorno ci interroghiamo sulla solidità della ripresa economica in Italia, ma ovviamente anche in Europa. Oggi su questo punto è tornato il presidente della BCE Mario Draghi, che è intervenuto in audizione al Parlamento europeo e ha confermato che la ripresa in Europa è lenta e graduale, ma è anche più resistente del previsto alle minacce che arrivano dal rallentamento delle economie dei paesi emergenti. È evidente però che non tutto sta andando come sarebbe necessario. Draghi in particolare è preoccupato per il basso livello dell'inflazione. Le sue attese che il tasso di inflazione possa normalizzarsi e quindi avvicinarsi all'obiettivo del 2% sono oggi inferiori a qualche mese fa. In effetti l'inflazione nei paesi dell'area euro è in territorio negativo e sappiamo come gli scenari della deflazione, cioè la diminuzione dell'indice dei prezzi, siano temuti per gli effetti sui consumi, sulla produzione e sui conti pubblici. Riassumendo, la crescita c'è ma è lenta e bisogna fare qualcosa di più per portare l'inflazione verso il 2%. Che cosa significa tutto questo? Significa, come ha detto oggi Draghi, che la BCE valuterà la sua politica monetaria durante la prossima riunione del Consiglio in programma il 3 dicembre. Un segnale che la BCE si prepara a rafforzare il QE, cioè il quantitative easing, ovvero lo stimolo monetario, l'immissione di moneta nel sistema attraverso gli acquisti di titoli, operazione che già oggi vale 60 miliardi di euro ogni mese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie, poi passiamo all'accordo europeo preso a Malta sui migranti. Sono due notizie chiaramente italiane. La prima riguarda la legge di stabilità, dove è raddoppiato il tetto dei bonus mobili per le giovani coppie. Invece sono elementi importanti, anche perché la detrazione verrà infatti calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro contro i precedenti 8.000 euro. Lo dico collegandomi anche a una notizia che è di carattere parzialmente economico, se ne sono occupati già i nostri GR24. L'Istat oggi fotografa un'Italia in cui ci si sposa di meno e quando ci si sposa soprattutto civilmente, con un matrimonio che dura in media 16 anni. Fin qua siamo a notizie di carattere sociodemografico. L'età della separazione si aggira a 47 anni per gli uomini, 44 per le donne. La cosa che ha a che fare con l'aspetto economico degli ultimi anni invece riguarda il numero di separazioni, perché l'Istat fa notare che sono calate le separazioni, andando a scorporare il dato si nota come siano calate soprattutto per le conseguenze economiche che le separazioni hanno, tant'è che le uniche separazioni in crescita sono quelle con uno dei due coniugi ultra sessantenne, immaginando, questa è la spiegazione dell'Istat, che lì probabilmente i figli già lavorano, uno se lo augura, e ci sia una situazione economica un po' più tranquilla. E poi al nord e al centro i matrimoni civili che hanno superato quelli religiosi. E poi l'altra notizia riguarda un altro successo del tesoro italiano nelle aste: il rendimento dei BTP a tre anni ormai si avvicina allo zero. Anche ieri abbiamo commentato per la prima volta un bot a un anno, il classico bot con rendimento negativo nella storia di questo paese. Oggi abbiamo un BTP sostanzialmente a tre anni che è sceso allo 0,11% di rendimento, quindi siamo allo zero. Il tesoro ha collocato tutti i 5 miliardi e mezzo con un'offerta altissima, perché comunque era superiore alla media. Sempre per quello che riguarda l'Italia, oggi è intervenuto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, che ha detto: io non ho problemi, il mio compito è lavorare in merito alle polemiche che avrebbero visto il governo Renzi, diciamo, lasciare da solo l'Agenzia delle Entrate. E poi ha aggiunto: io sono un'istituzione del paese, lavoro con il ministro Padoan, lo sento molto spesso, stiamo lavorando per il paese, la narrazione è una cosa molto diversa dalla realtà. Beh, sentiamo questo passaggio dell'Orlandi. Io sono un'istituzione del paese, lavoro con il mio ministro, lo sento molto spesso, stiamo lavorando per il paese, la narrazione è cosa diversa dalla realtà, quando si lavora, mi creda, per me questo è importante. Direttore, invece il Presidente del Consiglio ha avuto contatto recentemente? Recentemente no, il Presidente Renzi è un uomo molto impegnato, dobbiamo ringraziarlo per il lavoro che sta svolgendo, e non è normale che io veda il Presidente del Consiglio, perché io vedo il Ministro, cioè lavoriamo con il Ministro, con le strutture del Ministero, con le strutture economiche, quindi vedo naturalmente tutti i colleghi e le persone con cui lavoriamo, ma non è che io ogni giorno voglio incontrare il Presidente del Consiglio, ci mancherebbe. Il Presidente del Consiglio ha un livello assolutamente di responsabilità e di impegno di altra natura, quindi non ho problemi, lo dico, sto lavorando, il mio compito è lavorare, quindi questo lo dico con molta tranquillità. E poi l'ANAS, la dama nera. Ieri non vi dico cosa è uscito sulla dama nera, la manager nera, a me non piace Dama, ripeto, Dama è un complimento. Allora, nell'inchiesta Ana, se mi riferisco a Antonella Acrogliano, resta in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma. Quella che ieri ha detto sostanzialmente che non, tutti gli imprenditori che volevano lavorare con l'ANAS pagavano una mazzetta, ma vabbè, tutto normale. Hanno respinto le istanze di scarcerazione presentate. E tra l'altro, mentre scopriamo che l'ANAS era un verminaio, oggi c'è un'altra notizia che in qualche modo anticipa la nostra poco invidiabile classifica di domani, e mi riferisco alla città di Messina, perché in una città in cui non si riesce a far arrivare l'acqua e c'è una situazione idrica tale che poi basta uno smottamento, non c'è più l'acqua, fanno bypass, sbagliano pure a fare quello, deve arrivare l'esercito con le autobotti, il tutto, sappiamo, con l'interesse che ha la mafia nel traffico d'acqua da sempre in Sicilia, uno dei motivi per cui la Sicilia è ancora in questa condizione idrica, di approvvigionamento idrico. Beh, insomma, è interessante scoprire che mentre la città non riesce a dare acqua ai suoi abitanti, oltre la metà dei consiglieri comunali, 23 su 40, sono indagati nell'ambito di un'inchiesta ribattezzata Gettonopoli. E quanto stiamo raccontando da anni, quindi false dichiarazioni di presenza nei consigli comunali per beccarsi il gettone, abbiamo visto di tutto, raccontato di tutto. Domani devo fare anche una rettifica che riguarda Foggia, la faremo. Insomma, 12 di loro, per 12 di loro il GIP ha emesso la misura cautelare della firma davanti ai vigili prima e dopo la durata dei lavori consigliari. Sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati continuati di truffa aggravata, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio. Cioè, ciascun consigliere comunale è componente di almeno 6 commissioni ed ognuno in teoria potrebbe raggiungere il massimo di 24 presenze mensili, che è già un bel lavoro. In realtà, cosa facevano per massimizzare i gettoni di presenza? Utilizzavano vari sotterfugi per comprovare la propria partecipazione alle sedute delle commissioni consigliari permanenti. Pensate che dal dicembre del 2013 l'indennità mensile massima è aumentata a 2.184 euro con un minimo di 39 presenze mensili. E da dicembre 2013 quasi tutti i consiglieri comunali avevano raggiunto la soglia minima delle 39 presenze, sia attraverso le commissioni sia ponendo la sottoscrizione in sostituzione del capogruppo, frutto di un preventivo accordo tra delegante e delegato per massimizzare la fruizione dei gettoni di presenza. Insomma, stavano truccando la loro presenza per arrivare a queste 39 presenze della soglia minima. Da Messina a Malta, geograficamente il passo è breve, in realtà il tema è completamente diverso. Nel ringraziare Sergio Nava che è in studio con noi, gli chiedo ancora un attimo di pazienza, ho il meteo e la pubblicità, poi capiamo quanto valgono e dove andranno questo 1.800.000.000 di euro complessivi del Fondo Europeo di Cooperazione e Progetti per l'Africa. 349-238-6666 per gli sms, per WhatsApp, mentre poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Parliamo di Malta, dicevo, i leader europei che sono ancora riuniti, perché c'è una cena questa sera, se non ho capito male Sergio, ma al di là della cena mi interessa poco il menù, mi interessa il menù di quello che ha portato questo incontro. Abbiamo detto nei titoli e nei GR il Trust Fund, 1.800.000.000 in cooperazione e progetti per l'Africa, che se ho ben capito va ad aggiungersi ai fondi che i singoli stati stanziano. Va ad aggiungersi, ciao innanzitutto, va ad aggiungersi ai circa 20 miliardi che già diamo ogni anno come Europa ai paesi africani. Allora, non va a tutta l'Africa, va a tre aree in particolare, sono la regione del Sahel e l'area del lago Chad, il Corno d'Africa e l'Africa del Nord, i paesi gravitano intorno a quest'area, da cui arrivano poi anche la maggioranza dei migranti. È un fondo, diciamo, nuovo, la cui si mettono assieme questi soldi per situazioni di emergenza, fondamentalmente per creare opportunità di lavoro, per gestire meglio la migrazione, insomma per andare a combattere alla radice i motivi per cui arrivano i migranti. Però al di là di questo, che è un'ottima un'ottima, insomma, un'ottima cosa, certo, e uno sforzo di buona volontà. Il problema è la cifra, perché la cifra alla fine è stata ampiamente contestata dai paesi africani. Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha detto: se lottasse contro l'evasione fiscale delle multinazionali, stimata in 60 miliardi di euro, basterebbe ampiamente quella per venirci incontro e finanziarci. 1.800.000.000 sono soldi europei. In questo, se vogliamo, la figuraccia che ha fatto l'Europa è che nelle intenzioni bisognava poi aggiungere un altro 1.800.000.000 di fondi nazionali, da paesi nazionali. Ebbene, a oggi, adesso, i fondi nazionali sono 81 milioni, di cui, tra l'altro, quantomeno l'Italia è seconda, perché con 10 milioni dietro l'Olanda, 15, poi tutti gli altri hanno dato, sì, più o meno 3 milioni. Ci vuole un genio dell'economia per capire che da 80 milioni arrivare a 1.800.000.000. Un po' come i ricollocamenti, da 150 a 160 sì, mila. Sì, esatto, siamo arrivati, appunto, c'è un'ampia strada, mettiamola così. Però su questo, prima di passare a Renzi, Sergio, questa, c'è chi ha detto: beh, il bicchiere è mezzo pieno, perché in realtà poteva andare peggio. Questi soldi serviranno per la lotta ai trafficanti o soprattutto per i progetti di cooperazione? No, soprattutto in questo caso, soprattutto per progetti di cooperazione. C'è una parte anche su prevenzione dei conflitti, rafforzamento dello Stato di diritto, però sono sostanzialmente, come dire, situazione alimentare, gestione migrazione, opportunità occupazionali. Andiamo ora a sentire invece il Premier Matteo Renzi, che questa mattina, prima della fine del summit euroafricano, si diceva ottimista, invitava a guardare il bicchiere più che mezzo pieno, dice, anche perché, insomma, ha ripetuto alcuni concetti a cui tiene molto. Sentiamo quali. Oggi l'Unione Europea comunque si prende su di sé, con un esborso significativo, il tema di un rinnovato rapporto tra Europa e Africa. Quindi questo è un fatto positivo. Poi si può discutere se il fondo potesse essere più cospicuo o meno. Sono valutazioni che guardano sempre, diciamo, la parte di bicchiere mezzo vuoto o forse un quarto vuoto. Io vedo un bicchiere che è molto più che mezzo pieno, perché uno, l'Italia non è più sola sulla questione dei rifugiati; due, l'Africa è una priorità, non è l'unica naturalmente, c'è tutto il grande tema della Turchia, ne parleremo anche nel pomeriggio, del Libano, della Giordania, del Medio Oriente, ma insomma, di fronte a questo scenario finalmente si capisce che non si può andare avanti con risposte spot. Proprio per non dare risposte spot, vediamo di capire alcuni temi di questo 1.800.000.000. Gli ascoltatori fanno notare: ma non è che poi questi soldi andranno a finire nelle mani di regimi, barra, dittatori, insomma, comunque a alimentare la corruzione africana? C'è qualcosa su chi controllerà la destinazione di questi soldi? Allora, Sebastiano, dalla scheda che oggi ha mandato la Commissione Europea, la scheda stampa, no, nel senso che non è minimamente citato. Si parla di coinvolgimento dei vari attori a livello istituzionale e anche ad altri livelli, però questo tema non c'è. Poi, chiaramente, il fondo è appena stato istituito. No, ma infatti non è detto che non... che il fatto che non sia nella cartella, nel comunicato stampa, non prevede poi un controllo sull'utilizzo, lo speriamo, anzi, di questi soldi, altrimenti non si capisce a che cosa questo serve. È il grande tema alla fine degli aiuti all'Africa, se vogliamo, quanto sì, poi degli si aiuti perde di cooperazione. Faccio notare, vediamo se mi becco le critiche anche oggi, che uno di Gheddafi può pensare quello che vuole, e ci mancherebbe, però attenzione che poi, quando devi fare gli accordi di cooperazione per evitare gli sbarchi, devi metterti d'accordo con chi governa quei paesi. Allora uno può fare l'anima bella e non fare un ragionamento di realpolitik e dire: io non voglio parlare con i dittatori. A quel punto auguri, perché se iniziamo a guardare i paesi, diciamo, democratici veramente, saltano fuori anche più di una sorpresa anche in Asia. Non è che puoi parlare con, diciamo, la Cina, sì, perché ti fa comodo, la Russia, sì, per quanto sulla democrazia russa potremmo avanzare qualche dubbio, e poi il dittatore è solo quello africano. Ma soprattutto attenzione che la realpolitik, se è lui che controlla le cose, se è lui che controlla i flussi migratori, dovrai fare un accordo con lui. È brutto dirlo, ma i flussi, come sappiamo tutti, si erano fermati proprio quando vi fu un accordo con Gheddafi. Questo va al di là di ogni giudizio diciamo, sulla figura di Gheddafi e soprattutto sulla gestione del post Gheddafi, beh, lì il giudizio mi sembra abbastanza chiaro. A questo punto, ultima battuta, Sergio, non dovrebbe esserci più nessuna novità questa sera o potrebbe emergere qualche altro evento? Ma diciamo, quello potrebbe emergere stasera sarà più sul versante europeo, perché bisognerà ancora tornare una volta a hotspot, ricollocamenti sui quali siamo ampiamente indietro. La novità è che prima della fine del mese, se ricordo bene, il 29 ci sarà un vertice Europa-Turchia, perché siamo partiti con questo vertice Europa-Africa, cioè da dove arrivano i migranti, e andiamo ora sulla Turchia, che è la principale piattaforma da cui partono i migranti verso la rotta balcanica. Quelle per la rotta balcanica, e poi invece c'è tutta la piattaforma, diciamo, del Nord Africa, ecco perché ci stava la Libia in primis, da cui partono, anzi soprattutto sostanzialmente la Libia, verso la parte mediterranea. Grazie al nostro Sergio Nava. Il Presidente del Consiglio è intervenuto anche sui temi della legge di stabilità, in particolare il voto, l'approvazione che deve arrivare dall'Europa. Dice: non vedo particolari problemi, l'Italia rispetta tutte le regole del gioco e anche le clausole di flessibilità che abbiamo chiesto sono in linea con l'Unione Europea. Le clausole che l'Italia ha chiesto di flessibilità sono le clausole che non si è inventata l'Italia, ma che l'Unione Europea ha proposto. Noi stiamo totalmente in linea con le regole del gioco stabilite dalla Commissione Europea il 13 gennaio del 2015. La clausola di flessibilità sulle riforme, la clausola di flessibilità sugli investimenti e poi c'è un'ulteriore clausola, vedremo se sarà accordata o meno, sulla questione degli eventi eccezionali legati alla migrazione. Detto questo, la sintesi è che non vedo particolari problemi con la Commissione. Speriamo che non vi siano problemi con la Commissione. Nel frattempo ha parlato anche Schäuble, è tornato a parlare del flusso dei migranti, è diventata una slavina, la componente cattolica della CDU-CSU chiede limiti nell'accoglienza. No, dico che Schäuble sta particolarmente zitto anche perché devo leggere una notizia appena battuta dalla Volkswagen. Allora, la Volkswagen sta offrendo, pensate un po', un'amnistia ai dipendenti coinvolti nel Dieselgate, assicurando che non saranno licenziati se daranno informazioni su come sono stati truccati i test sulle emissioni. Cioè, siamo a livello quasi di protezione dei pentiti, non voglio di fare paralleli impropri, però sapete, cioè, chi è che fece la famosa copertina Der Spiegel con il piatto di spaghetti, la pistola sopra e poi il piatto di spaghetti, la coppola mafiosa, capito? Cioè, se di battute colpisci, di battute, o se di battute ferisci, di battute anche perisci. Allora possiamo dire che, insomma, la Volkswagen sta offrendo un progetto di protezione testimoni per capire che cavolo è successo lì dentro? La proposta riguarda i dipendenti garantiti dal contratto collettivo, sarà valida fino al 30 novembre. Parlate adesso, aiutateci a capire quanto grande fosse lo scandalo dei trucchi nelle missioni e noi vi garantiamo che non sarete licenziati. E devo dire che la lettera l'ha scritta il manager Herbert Diess, ha detto oggi: la proposta è stata fatta per far piena chiarezza in modo rapido sullo scandalo. Rapido, diciamo, a maggior ragione se sei in Germania, mica tanto, siamo a metà novembre. È da metà settembre, fine 20 settembre che ci occupiamo. Ma immaginate cosa sarebbe successo se l'avessero fatto gli italiani con la Fiat. Allora, il Parlamento Europeo, Mario Draghi, è il prossimo tema di questa puntata, mentre la borsa ha chiuso con un calo del 2,35% a Milano. Trimestrali oggi assolutamente non gradite, più altri ragionamenti. Nel caso di Exor invece la cessione, poi ne parleremo. Dopo il traffico, 349-238-6666 è il numero sia per WhatsApp che per i vostri SMS, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Oh. So far, economic activity in the euro area. Fino ad ora, l'attività economica nell'area euro ha dimostrato un certo grado di resistenza di fronte a fattori esterni che tendono a indebolire la domanda. Mentre la domanda esterna risulta in recessione, la quota di mercato delle esportazioni dei paesi dell'euroarea è cresciuta. Il costo dell'energia è in diminuzione e le nostre misure di politica monetaria stanno supportando i consumi e gli investimenti. Tuttavia, i rischi di una nuova contrazione dell'economia, derivante dal rallentamento della crescita globale e dei commerci internazionali, sono chiaramente visibili. Inoltre, le dinamiche dell'inflazione si sono indebolite, soprattutto a causa del basso prezzo del petrolio e del manifestarsi ritardato degli effetti dell'euro, rimasto troppo forte rispetto alle altre valute fino all'inizio di quest'anno. Quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi è la mia risposta a chi dice: ma insomma, la sentirò mai criticare Draghi? No, perché non è che uno deve criticare per forza. E un conto è capire se quanto ha fatto Mario Draghi e sta facendo potrà servire. Ma io una critica che non condivido è quella che fanno alcuni ascoltatori sia su WhatsApp che con gli SMS. Dicono: Draghi si è mosso tardi, adesso stiamo pompando liquidità, stampando euro, acquistando titoli di Stato, ma non serve più, bisognava farlo prima. Ragazzi, però, cioè, ricordiamoci anche un po' di memoria storica in sto paese che non ce l'ha mai. Fino a che non c'è stato l'attacco speculativo all'euro, e cioè la scommessa che la Grecia non ce l'avrebbe fatta, il Portogallo, poi la Spagna, poi l'Italia, 2011, e Mario Draghi ha detto: farò qualunque cosa a mia disposizione, poi la ribecchiamo quella frase adesso, per difendere l'euro. Non la Bundesbank e tutti i componenti, diciamo, del centro-nord Europa, della BCE, non ne volevano sapere di sentir parlare di acquisto di titoli di Stato, di rete di protezione per le banche, di canale agevolato di finanziamento per le banche a patto che lo prestassero alle imprese. Era fumo negli occhi per i tedeschi, che dicevano: no, in questo modo si va a pompare liquidità e quant'altro, bisogna che i singoli paesi facciano i compiti a casa. E Weidmann, il genio della Bundesbank, pure sposato con un'italiana, ha continuato anche negli ultimi mesi a criticare Draghi per un eccesso di politica, diciamo, keynesiana, troppo simile a quella degli Stati Uniti. Comunque, Alessandro Merli, buonasera, corrispondente da Francoforte, del Sole 24 Ore. Non so se tu sei d'accordo, magari dimmi di no, dimmi che no, Draghi poteva muoversi prima. A noi è sembrato di vedere un altro film in cui si è mosso quando ha potuto sfruttare, tra virgolette, una situazione di estrema criticità. Lo dico perché questa critica sta arrivando abbastanza ciclicamente sul fatto che adesso la misura di Draghi non servirà. Alessandro. Ma diciamo che c'è stata una lunga trattativa, chiamiamola fra virgolette politica, sulla partenza di questa politica di stimolo monetario. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro che Draghi non è il presidente della Fed, non è il governatore della Banca d'Inghilterra, deve tirarsi dietro tutti gli altri paesi che fanno parte dell'area dell'euro, dei quali la Germania è il più importante, per cui inevitabilmente ha dovuto prima cercare di esplorare tutte le compatibilità politiche. Ricorderete, insomma, che è andato anche ad ottenere l'avallo della signora Merkel, anche se questo formalmente certo, non si può dire. Quindi è stata una trattativa complessa, indubbiamente. Draghi poi è un uomo che si muove con cautela, qualcuno può dire forse si è mosso in ritardo, però alla fine, insomma, la BCE qualcosa lo sta facendo. Ecco, invece, però, venendo all'oggi, mi è sembrato un Draghi un po' più preoccupato, nel senso che a fronte del dati OCSE, dei dati che abbiamo commentato in questi giorni, la ripresa c'è, per carità, in Italia un po' più forte che in altri paesi, dice: attenzione, è lenta, è più forte che nel passato, però insomma, possiamo sentire questo passaggio? Ce l'abbiamo il tempo? Non ce l'abbiamo il tempo, lo sentiamo dopo il GR24, però il tuo commento, il commento di Alessandro Merli, sì, hai avuto la sensazione che fosse un po' più preoccupato sui rischi di una ripresa più debole, più al ribasso, con un'inflazione che ancora non decolla? Ma Draghi è preoccupato su entrambi i fronti, sul fronte della crescita, dove ha detto ci sono dei rischi al ribasso che derivano dalla crescita globale più debole, dal commercio estero, eccetera. Ed è preoccupato sul fronte dell'inflazione, e in questo un po' ha risposto ai suoi critici, in quanto dice sì, l'inflazione si è indebolita per i prezzi del petrolio più bassi, quindi qualcuno dice, compreso la Bundesbank, vabbè, non possiamo fare niente sui prezzi del petrolio, quindi aspettiamo che passi questa onda. In realtà lui dice, se guardiamo anche la cosiddetta inflazione di base, cioè che diciamo depurata dall'effetto del prezzo del petrolio e di quelli degli alimentari che sono più instabili, anche questo si è indebolito. Per di più, non possiamo come in passato pensare che saranno i salari che daranno l'impulso, certo, all'inflazione, perché i salari sono deboli, perché le economie sono deboli, eccetera. Quindi, insomma, credo che abbia preparato un po' il terreno a questa azione che la BCE vuole prendere il 3 di dicembre. E di questo parliamo dopo il GR24. La notizia più forte, appunto, ha fatto capire che sarà ancora più incisiva la sua attività. Dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracomitalia, anche in cloud. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne, perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Oh, l'abbiamo recuperata la frase di Mario Draghi del luglio 2012, Alessandro Merli, quando dice whatever it takes, quindi tutto quello che sarà, che potremmo fare, che è a nostra disposizione per difendere l'euro. La frase di Draghi di oggi, invece, quella che alcuni ascoltatori dicono sta preparando a un QE2, un po' criptica come analisi, cioè a una nuova tornata di acquisto di titoli di Stato da parte della BCE e delle banche centrali ancora più massicce, quindi creare ancora maggiore liquidità. Beh, la frase che può far così ipotizzare questo è questo passaggio di Mario Draghi oggi. Signs of a sustained turnaround in core inflation. I segnali di una ripresa della dinamica inflazionistica si sono indeboliti. Le prospettive attuali suggeriscono che per riportare sotto controllo l'inflazione potrà essere necessario un tempo più lungo rispetto a quanto avevamo previsto nel marzo scorso, quando avevamo fatto una prima valutazione sull'impatto delle misure messe in atto. Continueremo a monitorare il rischio per la stabilità dei prezzi e a esaminare i fattori che rallentano il ritorno del tasso di inflazione sui livelli desiderati. Nella riunione di dicembre del Consiglio della BCE siamo pronti a riesaminare le misure di allentamento monetario. Se dovessimo concludere che il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi a medio termine è a rischio, agiremo usando tutti gli strumenti disponibili nel nostro mandato per assicurare che un appropriato livello di politica monetaria accomodante sia mantenuto. Il programma di acquisto degli asset è considerato particolarmente flessibile e potente. Abbiamo sempre detto che il programma di acquisto titoli sarebbe continuato oltre il settembre del 2016, nel caso non dovessimo assistere a una risalita dell'inflazione di medio termine in prossimità dell'obiettivo del 2%. In caso di necessità, possono essere utilizzati anche altri strumenti che rafforzino l'impatto del programma di acquisto titoli. Allora, Alessandro Merli rafforzerà l'acquisto di titoli che, se non ricordo male, viaggia sui 60-70 miliardi di euro al mese. E cosa vuol dire altri strumenti? Ma altri strumenti, uno, Draghi stesso lo ha citato esplicitamente, anche un po' a sorpresa, alla conferenza stampa di Malta, e poi lo ha ribadito nell'intervista che ha fatto col Sole 24 Ore, ed è il taglio del tasso sui depositi delle banche presso la BCE. Già adesso questo tasso è negativo per lo 0,20%, che vuol dire che per tenere le proprie riserve presso la BCE, le banche pagano la BCE 20 punti base, quindi tagliando ulteriormente questo tasso è possibile che si incentivino le banche a far più credito o quantomeno si favorisca un ulteriore calo dell'euro. Quindi questo è uno strumento che Draghi oggi non ha citato esplicitamente, ma che aveva menzionato in passato. E poi già altre volte aveva parlato di altri strumenti e non aveva mai voluto precisare di cosa si tratti, però oggi nel domande e risposta con i parlamentari europei ha detto insomma il nostro repertorio è molto ampio, quindi abbiamo varie possibilità a nostra disposizione, i nostri tecnici le stanno studiando e quindi è possibile che prima del 3 dicembre la BCE aggiunga qualcos'altro. I mercati al momento si aspettano quantomeno o un aumento degli acquisti mensili di 60 miliardi di euro o l'annuncio di un prolungamento oltre il settembre 2016, cosa che oggi Draghi è in pratica ha implicitamente confermato, oppure o forse anche contemporaneamente il taglio dei tassi del tasso sui depositi. Eh sì, vedo un ascoltatore che dice forse Schäuble non parla, Weidmann non sta parlando, forse Schäuble sta a Volkswagen come Weidmann, che è il governatore della banca centrale tedesca, della Bundesbank, sta a Deutsche Bank. Sì, vabbè, accettiamo la battuta, Deutsche Bank ha avuto un rosso profondo dovuto anche allo scandalo Libor e sembra che abbia anche dei problemi su quanti derivati ha in pancia. Comunque, accettiamo la battuta nel ringraziare Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte e passiamo adesso alla borsa. Che oggi a Milano reagisce poco alle parole di Mario Draghi, che ha fatto appunto capire, come ricordava Alessandro Merli, che il 3 dicembre partirà un'altra azione, quantomeno su quantitative easing, reagisce molto alle trimestrali. Allora, e poi una vicenda specifica come Exor. Exor è il peggior titolo, meno 6,45%, Milano ha perso il 2,35%. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Exor, vabbè, ha collocato, lo si è saputo ieri in serata, il 4,8%, la società che controlla, la controllante del gruppo Fiat, 12 milioni di azioni, attende un incasso di mezzo miliardo di euro, 500 milioni di euro, e il titolo, se ho ben capito, si è mosso in base al prezzo di collocamento e perde il 6,45% a tutto 41,95 euro. Invece Unicredit meno 5,50, Saipe meno 4,5, poi Unipol meno 4,12, CNH meno 4%, poi Ubibanca meno 3,30, Mediolanum meno 3,30, Monte dei Paschi meno 3,1 come Ferragamo, Fiat Chrysler meno 3% come Finmeccanica. Queste rispondono ad altre logiche. Partiamo da Unicredit e poi andiamo però anche su Saipem e le banche. Sì, diciamo che intanto Exor, diciamo che sullo slancio è scesa anche sotto il prezzo di collocamento, era 42,60, adesso è 41,95. E Unicredit, sì, anche qui l'effetto è dei conti e del nuovo piano industriale annunciato ieri, che prevede tra le altre cose 18.200 esuberi in Europa, e secondo gli analisti sia i risultati sia i target di piano sono più o meno in linea con le attese, se non migliori, ma diciamo che non c'è spazio ancora per un miglioramento del giudizio sui titoli, soprattutto sul fronte del capitale. Anche a fine piano Unicredit avrà un common equity tier 1 di 100 punti base inferiore ai competitor, e quindi questo è ancora un elemento che frena, diciamo, un miglioramento del giudizio della banca. Fai bene a ricordarlo, perché di solito, quando è brutto dirlo, ma quando uno annuncia esuberi, riduzione dei costi, la borsa ti premia. Invece qui il calo è significativo, insomma, meno 5,50. Sì, esatto, infatti di solito le ristrutturazioni vengono premiate. È veramente cinico, però quando dici, certo, che licenzierai 18.200, ridurrai, licenziare la parola scorretta perché molti sono prepensionamenti, comunque ridurrai il tuo organico di 18.200 dipendenti, di cui appunto 6.900 in Italia, di solito viene premiato. Così non è stato. Saipem è il gruppo delle banche? Beh, Saipem risente insieme a tutto il settore del calo del prezzo del petrolio, che sta perdendo 2,5 punti in questo momento insieme a tutte le altre materie prime. E le banche, diciamo che UbiBanca continua a perdere terreno dopo i conti inferiori alle attese, già ieri era in calo, adesso ha perso il 3,38 e su quelle che ieri erano salite c'è un po', sono un po' di realizzi. Banca Popolare di Milano -2, Banca Popolare -2,5 e limita i danni invece la Popolare dell'Emilia Romagna, che ha chiuso a -0,2%. I conti annunciati ieri sera sono stati migliori delle previsioni e anche dalla conference call di oggi dell'amministratore delegato Alessandro Vandelli non sono arrivate notizie negative, anzi qualche indicazione positiva sul fronte di Arca SGR, in cui Biper vuole rimanere, e quindi il titolo, diciamo, ha limitato i danni. Ancora, per quello che riguarda i migliori invece oggi, perché la borsa è negativa, ma Hughes Net a Porte dopo i conti post fusione, ricavi 1,2 miliardi, guadagna il 2,93%. Bene, e sempre dopo i conti, che ricordavo in apertura del programma, anche Tod's più 1,80%. Sì, esattamente, Jux conti positivi, ha alzato anche le stime sulle sinergie post fusione a livello di EBITDA, 85 milioni da 60, e bene anche Tod sui conti. Aggiungo che è salita proprio sul finale, ha migliorato sul finale A2A, che ha chiuso in rialzo dello 0,5%, anche qui conti in rialzo e positivi, e i vertici hanno inoltre aperto la possibilità di un aumento, un miglioramento della politica dei dividendi se i miglioramenti strutturali, se i miglioramenti nei conti visti nei 9 mesi si riveleranno strutturali per la società. Ancora bene, A2A più 0,50, Prysmian più 0,20%. Tra gli altri titoli segnalo Eni, beh, qui c'è sempre il petrolio, lo ricordavamo in apertura, -2,70%, come Azimut, Finmeccanica l'abbiamo detta. Unipolsai -2,70%, Banco Popolare -2,5%, Moncler -2,30%, come Luxottica e Anima Holding, Telecom -2,20%, poi Tenaris perde il 2 come Enel. Ultimo titolo che vorrei commentare invece, anzi sono due, uno è Astaldi e l'altro invece fuori dai titoli di maggiore capitalizzazione, Salini in pregilo. Sì, Astaldi è stato il peggiore di giornata, -18%. E anche ieri c'è preso una scoppola. Sì, che... ieri dice -17%, oggi -18,47%, e il titolo continua a andare a picco dopo i conti trimestrali con un utile dimezzato e la possibile e potenziale minusvalenza che potrà arrivare dalla vendita della quota nell'autostrada Serenissima. Gli analisti hanno bocciato i conti, invece bene Salini in pregilo, più 6,88%, dopo anche qui l'annuncio dei conti e l'annuncio di un'acquisizione negli Stati Uniti, ha annunciato appunto l'acquisto di Lane Industries, che è il maggiore costruttore di autostrade e principale produttore privato di asfalto, per $406 milioni. Grazie. Dovrei commentare anche RCS Media Group, ha perso 7,5%, è stata anche sospesa a un certo momento, pesano secondo gli analisti le indiscrezioni secondo cui potrebbe convocare un'assemblea ad hoc per prorogare di alcuni mesi la delega per l'aumento di capitale prevista per fine anno, cioè un bel segnale sulla salute economica del gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Grazie, dicevo, a Paolo Paronetto. Traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Focus Economia. Noi restiamo in tema di traffico, di trasporto più che altro, perché con oggi, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666 come SMS, come WhatsApp, attenzione, su WhatsApp stanno arrivando decine di messaggi al minuto, ora è difficile leggerli tutti, o leggo o conduco. Quello che cerchiamo di fare, tra l'altro lo faccio pure male, almeno fatemi fare una cosa, è raggruppare i temi. Ma dicevo, inizia un viaggio di questo programma che è ciclico, perché lo facciamo ogni anno, nei vari settori produttivi, per capire che cosa vedono della ripresa, che cosa non vedono della ripresa, gli indicatori empirici, come li chiamavo all'inizio trasmissione. Partiamo col mondo dell'autotrasporto, che ripeto, assieme al Baltic, è un po' il nostro Baltic Dry Index, l'indice che misura il costo dei noli, dei cargo a livello mondiale. Più alto il costo per noleggiare un cargo e trasportare le merci, più il commercio mondiale è in ripresa. Il Baltic Dry Index è ancora a livelli bassi rispetto ai livelli del 2008, Vorrei capire invece, ancora in maniera più empirica, che cosa vedono di ripresa gli autotrasportatori. Anche lì è brutto dirlo, ma più camion circolano nelle autostrade, più l'economia è in ripartenza, e l'opposto vuol dire che è in recessione. Ringrazio Pasquale Russo, segretario generale di Unatras e Conftrasporti. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Poi arriveremo anche all'incontro che avete avuto con il Ministero dei Trasporti il 5 novembre per i temi dell'autotrasporto, un settore che ha visto svanire quasi 200.000 posti di lavoro tra 2008 e 2013. Il trasporto merci su strada è sceso del 35%, il consumo di carburante del 37%. Saranno contenti gli automobilisti che hanno meno traffico, ma l'economia vuol dire che si era fermata. Avete qualche segnale di una ripresa del trasporto su merci? Guardi, qui il trasporto su camion delle merci, mi scusi. Certo, possiamo citare due dati. Uno, quello dell'ultimo semestre, che vede sulle autostrade italiane una ripresa del traffico pesante, per cui si è registrato un'inversione di tendenza, ovviamente molto lontano da quello che era il livello pre-crisi, ma si comincia a registrare qualche punto percentuale di maggiore presenza di camion sulle autostrade italiane. Il problema vero per l'autotrasporto è che certamente negli ultimi sei mesi abbiamo registrato un aumento di traffico, anche se è un aumento di traffico un po' non regolare, non lineare, fatto da momenti di picco con alternati a momenti di forte calo, però mediamente possiamo dire che c'è un piccolo aumento. Il dato che ci preoccupa di più, e che è stato poi oggetto dell'incontro che abbiamo fatto col Ministro, è che comunque l'autotrasporto italiano continua a perdere quote di mercato molto consistenti. In settimana sono arrivati i dati di Eurostat che ci dicono che nel 2013, che è l'ultimo anno in cui c'è una rilevazione dei dati consolidata e precisa, il trasporto fatto in cabotaggio, che è quel trasporto operato da vettori esteri che vengono a farlo in Italia, è aumentato, pensate un po', del 67%. E voglio dare un ulteriore dettaglio su questo. Nel 2013 hanno cominciato a lavorare in Italia vettori romeni e bulgari, perché da quell'anno che si è consentito, secondo i regolamenti comunitari, si è consentito a questi vettori, appunto romeni e bulgari, di poter lavorare in Italia. Quindi potremmo dire molto tranquillamente che, anche se c'è un po' di ripresa del traffico, purtroppo questa non è a beneficio delle imprese. La intercettano i romeni e i bulgari, lo dico con massimo rispetto, però i vostri cinesi, qualcuno ricorderà l'esempio dei cinesi che facevano, sono all'interno dei confini dell'Unione Europea, diciamocelo tutto, perché certo. Però è tutto legale, è russo, nel senso che voi avete chiesto, se ho ben visto, il mantenimento del fondo risorse di 250 milioni, no, per il vostro settore, e poi di proseguire con l'albo degli autotrasportatori, perché io non ho nulla in contrario che i rumeni e i bulgari vengano a giocarsela, però devono rispettare le stesse regole a cui sono sottoposti i nostri autotrasportatori, se no diventa concorrenza sleale. Guardi, il tema è proprio questo, perché purtroppo ci sono delle regole che non voglio qui descrivere perché annoierei probabilmente chi ci ascolta, ma ci sono delle regole ben precise. La più importante per fare cabotaggio, cioè per fare in maniera tale che un trasportatore rumeno, bulgaro, ma di qualsiasi nazionalità all'interno dell'Unione Europea possa venire in Italia, la regola madre, quella più importante, è che uno, per venire in Italia a fare trasporto di cabotaggio, deve entrare con un carico completo, cioè io devo avere con il mio camion dalla Romania, dalla Bulgaria, un camion pieno, allora posso fare cabotaggio. Purtroppo 9 volte su 10 entrano senza un carico, quindi vengono stabilmente a fare trasporti all'interno del nostro stato, e questo è illegale, ha ragione. C'è una piccola cosa che però io voglio citare. Vede, molto spesso si sente parlare della Germania come dire un esempio di stato europeo, no? Non come quello programma. Che ci crede di più. Vabbè. Diciamo in generale, come quello che ci crede di più, no? Si piglia sempre, o comunque i tedeschi si presentano così, questo va bene. Possiamo... La Germania, per arginare questo fenomeno, ha stabilito che chiunque va in Germania, anche un trasportatore che ci passa, deve necessariamente rispettare il salario minimo previsto dalle leggi tedesche. Per cui, al di là del cabotaggio, se io vado in Germania, prima di muovermi devo mandare un fax, pensi un po', in Germania, con la quale dichiaro, attraverso il quale dichiaro che l'autista che è a bordo del mio camion rispetta il salario minimo tedesco. Allora, delle due l'una, o facciamo i controlli sui camion o chiediamo anche noi il metodo alla tedesca. E ripeto, un conto è la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone, altra cosa è la concorrenza sleale, cioè avere degli autotrasportatori nostri sottoposti a delle regole giuste, per carità, ma non controllare quelle degli altri. E soprattutto, lo dico a chi sta scrivendo, il camion che entra vuoto non è che non piaccia, va a violare le regole. Cioè tu puoi fare cabotaggio se stai trasportando qualcosa, non se arrivi vuoto in Italia e poi fai un trasporto, non so, Roma, Milano o Gorizia, Torino. Grazie anche a lei, e mancano i controlli, scrivono molti ascoltatori, avete ragione. Grazie anche al segretario generale dell'Una Trans e Conftrasporti Pasquale Russo. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con la poco invidiabile classifica degli sprechi della settimana, ma anche con il caso virtuoso della settimana. Radio 24. La passione si sente.